Nel frattempo, colto al volo il nome di Bloch, l'archivista seguiva la sua intervista a Norpois con un'inquietudine che ne destò una di diverso segno, ma altrettanto forte, nella marchesa. Poiché si sentiva in soggezione davanti all'archivista e con lui si atteggiava da antidreyfusista, temeva le sue rampogne nel caso si fosse accorto che stava ospitando nel suo salotto un ebreo più o meno affiliato al sindacato. «Mentalità, eh? Ne prendo nota. Non mancherò di avvalermene», disse il duca. Non parlava per metafora. Aveva un piccolo taccuino pieno di citazioni che rileggeva prima dei pranzi importanti. «Mi piace, mentalità. Se ne lanciano tante di parole nuove, ma non durano. Ultimamente, per esempio, ho letto che un certo scrittore era talentoso. Puh, capisca chi può. Poi però non mi ci sono più imbattuto. Ma mentalità è più diffusa di talentoso», osservò lo storico della fronda per inserirsi nella conversazione. «Alla commissione del Ministero della Pubblica Istruzione, di cui faccio parte, l'ho sentita usare parecchie volte. Io che non ho l'onore di far parte del Ministero della Pubblica Istruzione», riprese ascoltandosi parlare, «né del circolo Volney, frequento solo l'Union e il Jockey. Voi non siete del Jockey, signore?» chiese allo storico, il quale, fiutando un'insolenza e non capendola, si mise a tremare in tutte le membra. «Io che non pranzo mai in casa del signore Emile Olivier, devo confessare che non conoscevo la parola mentalità. Suppongo, Argencourt, che siate nella mia stessa situazione. Sapete perché non è possibile produrre le prove del tradimento di Dreyfus? Pare che sia, lo si dice in via riservata, perché è l'amante della moglie del ministro della guerra». «Ah, credevo della moglie del presidente del consiglio», disse il signor d'Argencourt. «Ma come siete barbosi tutti quanti con questo vostro affare», intervenne la duchessa di Guermantes, la quale, dal punto di vista mondano, teneva sempre a chiarire che non si lasciava influenzare da nessuno. «Per quanto riguarda gli ebrei, la faccenda non può avere per me la minima conseguenza, visto che non ne frequento e che intendo perseverare in questa felice ignoranza. Ma, d'altra parte, trovo insopportabile che Marie Hénard o Victorien ci impongano una quantità di signore Durand o Dubois che non ci saremmo mai sognati di conoscere, col pretesto che la pensano nel modo giusto, che non comprano niente dai negozianti ebrei e che hanno l'ombrello con su scritto «Morte agli ebrei». Sono stata l'altro ieri a casa di Marie Hénard. Una volta era una delizia. Adesso ci incontri tutte le persone che hai passato la vita ad evitare, col pretesto che sono contro Dreyfus e altre di cui non si sa nemmeno chi siano». «No, no, è la moglie del ministro della guerra. Questa almeno è la voce che corre per le alcove», riprese il duca, il quale si compiaceva d'usare nella conversazione certi modi di dire che credeva ancien régime. «Per quanto mi riguarda, comunque, tutti sanno che penso esattamente il contrario di mio cugino Gilbert. Non sono un feudale come lui. Andrei a passeggio con un negro se fossi amico mio, e non starei certo a preoccuparmi del giudizio di terzi o quarti, ma insomma, dovete pure ammettere che quando ci si chiama Saint-Lieu non ci si diverte a fare il bastian contrario col mondo intero, il quale, credete pure, ha più spirito di Voltaire e anche di mio nipote, e soprattutto non ci si abbandona a queste, come chiamarle, acrobazie di sensibilità 8 giorni prima di presentarsi al circolo. Francamente un po' eccessivo. No, ci scommetto che è stata la sua puttanella a montargli la testa. L'avrà convinto che così si conquista un posto tra gli intellettuali. Gli intellettuali è una voluttà per quella gente. Sull'argomento del resto è già stato fatto un piccolo gioco di parole, piuttosto grazioso ma molto, molto cattivo». E il duca citò sottovoce, a beneficio della duchessa e del signor d'Argencourt, Mater Semita, che in effetti circolava già al Jockey, dato che fra tutti i semi migranti quello che ha le ali più robuste, grazie alle quali può attecchire alla più sorprendente distanza dal luogo in cui si è schiuso, è pur sempre una freddura. «Potremmo chiedere spiegazioni al signore, che ha l'aria di un'erudita», aggiunse il duca accennando allo storico. «Ma è meglio non parlarne per niente, tanto più che la cosa è assolutamente falsa. Non sono ambizioso come la cugina Mirepoix, che pretende di far risalire la sua genealogia a prima di Gesù Cristo, fino alla tribù di Levi, e mi onoro di poter dimostrare che nella nostra famiglia non c'è mai stata una sola goccia di sangue ebreo. Ma insomma, sia come sia, non possiamo farci prendere per il naso. È un fatto che le graziose opinioni del mio signor nipote possono fare parecchio rumore laggiù, tanto più che Fezensac è malato e sarà durà a condurre il gioco, e voi sapete quanto gli piace fare il sopracciò», concluse il duca, il quale, non essendo mai riuscito a penetrare il significato preciso di certe espressioni, era convinto che fare il sopracciò volesse dire non darsi delle arie, ma creare delle complicazioni. «Comunque, se quel Dreyfus è innocente», interruppe la duchessa, «non è che ne fornisca grandi prove. Che lettere stupide, enfatiche, scrive dalla sua isola! Non so se Sterasi sia meglio di lui, ma ha ben altra classe nel tornire le frasi, ben altra vivacità. La cosa non farà certo piacere ai partigiani del signor Dreyfus. Una bella disgrazia per loro non poter cambiare innocente». Tutti scoppiarono a ridere. «Avete sentito la battuta di Orian?» chiese avidamente il signor di Guermantes a Madame de Villeparisis. «Sì, e mi sembra spiritosissima!» Ma l'apprezzamento non parve sufficiente al duca. «Ebbene, a me non sembra spiritosa, o meglio, non mi interessa che lo sia o non lo sia, non mi importa nulla dello spirito!» Il signor d'Argencourt protestava. «Non pensa a una sola parola di quel che dice», mormorò la duchessa. «Sarà probabilmente perché ho fatto parte delle camere, dove ho sentito discorsi brillanti che non significavano nulla. È lì che ho imparato ad apprezzare soprattutto la logica, ed è forse questa la ragione per cui non mi hanno rieletto. Le spiritosaggini mi lasciano indifferente». «Bazin, non fatemi il Joseph Prudhomme. Adesso, sapete bene, mio caro, che nessuno ama lo spirito più di voi. Lasciatemi finire. È proprio perché sono insensibile a un certo genere di facezie che apprezzo così spesso lo spirito di mia moglie. E già, in generale Orian parte da un'osservazione esatta, ragiona come un uomo e trova le parole giuste come uno scrittore». Bloch cercava di stimolare Nurpois a pronunciarsi sul colonnello Picard. «È incontestabile», rispose l'ambasciatore, «che la deposizione del colonnello era necessaria. Non ignoro che, sostenendo tale opinione, ho strappato a più di un mio collega degli strilli da ossifraga, ma a mio modo di vedere il governo aveva il dovere di lasciar parlare il colonnello. Non si esce da un simile imbarazzo con una semplice piroetta, se non a rischio di precipitare in un letamaio. Per quel che riguarda l'ufficiale, la sua deposizione suscitò alla prima udienza un'impressione quanto mai favorevole. Quando lo si è visto, con la sua figura elegante nella bella uniforme dei cacciatori, farsi avanti a raccontare, con un tono assolutamente sobrio e schietto, ciò che aveva visto, ciò che gli era parso vero, affermando «sul mio onore di soldato», e nella voce di Norpois a questo punto vibrò un lieve tremolo patriottico, «questa è la mia convinzione, non si può negare che l'emozione sia stata profonda». «Eh sì, è Dreyfusista, non c'è più ombra di dubbio», pensò Bloch. «Ma ad alienargli del tutto le simpatie che sulle prime era riuscito a riscuotere è stato il suo confronto con l'archivista Gribble. Quando si udì l'intervento di quel vecchio servitore dello Stato, di quell'uomo che ha una parola sola», e Norpois sottolineò il seguito della frase con l'energia delle convinzioni sincere, «quando lo si vide fissare negli occhi il suo superiore, tenergli testa senza alcun timore e dirgli, con un tono che non ammetteva replica, «Andiamo, colonnello, sapete bene che non ho mai mentito. Sapete bene che in questo momento, come sempre, sto dicendo la verità. Ebbene, il vento mutò direzione. Picard ha avuto un bel muovere cielo e terra nelle udienze successive. Il suo è stato un fiasco completo». «Eh no, decisamente antidreyfusista. Questo è poco ma sicuro», si disse Bloch. «Ma se è convinto che Picard sia un traditore e un bugiardo, come può tener conto delle sue rivelazioni, evocarle come se le trovasse toccanti e le credesse sincere? E se al contrario vede in lui un uomo onesto che obbedisce alla propria coscienza, come può pensare che abbia mentito nel confronto con Gribelin? Forse, se Norpois parlava a Bloch come uno che fosse pienamente d'accordo con lui, era perché, antidreyfusista all'estremo e convinto che il governo non lo fosse abbastanza, osteggiava quest'ultimo non meno degli stessi dreyfusisti. O forse perché ciò che gli stava a cuore in politica era qualcosa di più profondo, situato su un piano affatto diverso, dal quale il dreyfusismo appariva come un dettaglio insignificante e indegno dell'attenzione di un patriota interessato alle grandi questioni internazionali, o più probabilmente perché i principi della sua saggezza politica, applicandosi solo a problemi di forma, di procedura, di opportunità, erano impotenti a risolvere le questioni di fondo, così come in filosofia la logica pura a dirimere le questioni esistenziali, o anche perché, in virtù di quella stessa saggezza, considerava rischioso affrontare simili argomenti e preferiva, per prudenza, parlare solo di circostanze secondarie. Ma dove Bloch si sbagliava era nel credere che Norpois, fosse anche stato meno prudente di carattere o meno rigorosamente formalista, avrebbe potuto, se l'avesse voluto, dirgli la verità sul ruolo di Henri, di Picard, di Dupatie de Clan, su tutti i punti dell'affare. In effetti, Bloch non dubitava minimamente che Norpois questa verità la conoscesse. Come poteva ignorarla dal momento che conosceva i ministri? Bloch pensava, ben inteso, che la verità politica può essere approssimativamente ricostruita dalle intelligenze più lucide, ma si figurava, proprio come la maggioranza della gente, che essa abiti pur sempre, indiscutibile e materiale, nell'archivio segreto del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio, i quali ne mettono a parte i ministri. Ora, anche quando la verità politica comporta dei documenti, è raro che questi valgano più di una lastra radiografica, dove il profano crede che la malattia del paziente sia scritta a tutte lettere, mentre, di fatto, essa fornisce un semplice elemento di valutazione che andrà ad aggiungersi a molti altri sui quali il medico baserà il suo ragionamento e svilupperà la sua diagnosi. La verità politica, insomma, ci sfugge nel momento stesso in cui, avvicinandoci agli uomini che sanno, crediamo d'averla raggiunta. Anche più tardi, per restare all'affare Dreyfus, quando si verificò un fatto clamoroso come la confessione di Henri, seguita dal suo suicidio, esso fu prontamente interpretato in modi opposti da alcuni ministri dreyfusisti e da Cavagnac e Coignet, che pure avevano scoperto il falso e condotto l'interrogatorio. Ma c'è di più. Persino tra i ministri dreyfusisti e della medesima tendenza, i quali giudicavano dunque non solo in base agli stessi elementi di fatto, ma anche con lo stesso atteggiamento mentale, la parte avuta da Henri nella vicenda venne spiegata in termini diametralmente opposti, giacché gli uni vedevano in lui un complice di Esterhazy e gli altri, invece, attribuivano questo ruolo a Dupatie de Clam, aderendo così a una tesi del loro avversario Coignet e trovandosi in totale disaccordo con il loro alleato Reynat. Tutto ciò che Bloch riuscì a spremere da Norpois fu che, ammesso e non concesso che il capo di Stato Maggiore, Boisdeff, avesse fatto fare una comunicazione segreta a Rochefort, si sarebbe dovuto scorgervi qualcosa di singolarmente spiacevole. Tenete per certo che il ministro della guerra avrà consacrato il suo capo di stato maggiore, perlomeno in pectore, agli dei inferi. Una smentita ufficiale non sarebbe stata, a mio modo di vedere, una superfetazione. Interpocula, comunque, il ministro fa sull'argomento affermazioni di estrema durezza. Ci sono materie, d'altronde, nelle quali è assai imprudente creare un'agitazione che si rischia poi di non poter dominare. «Ma quei documenti sono manifestamente falsi», disse Bloch. Il signor di Norpois non rispose, ma dichiarò che disapprovava le prese di posizioni del principe Henri d'Orléans. «Fra l'altro, non possono che turbare la serenità del pretorio e provocare agitazioni che, in un senso come nell'altro, sarebbero deplorevoli. Certo, è necessario mettere un freno agli intrighi antimilitaristici, ma non trarremo alcun vantaggio nemmeno da un disordine fomentato da quegli elementi della destra che, anziché servire l'idea patriottica, pensano solo a servirsene. La Francia, grazie a Dio, non è una repubblica sudamericana e non s'avverte davvero il bisogno di un generale da pronunziamento».